2024. Vincitore dello European Podcast Award, il premio ai migliori podcast europei. 2024 di Enrico Pagliarini. Questa è la puntata del 20 e 21 luglio 2013. Benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Io sono Enrico Pagliarini, questo programma è disponibile anche attraverso il sistema podcast di Radio 24 sul nostro sito internet www.radio24.it oppure attraverso molte delle piattaforme che distribuiscono audio digitale a partire da iTunes, ma ce ne sono tantissime. Iniziamo questa settimana con una provocazione che poi, se ci pensiamo bene, non è una provocazione di poco conto. È stata lanciata in un piccolo paese quasi insignificante del Colorado, Deer Trail, dove il 6 agosto verrà discussa la proposta di concedere una licenza di caccia al drone. Allora, sappiamo che i droni sono questi velivoli, ultimamente molto spesso elicotteri, piccoli elicotteri, quadricotteri, esocopteri con 6 eliche, 8 eliche, eccetera, eccetera, che vengono guidati oppure possono seguire delle rotte anche in modo automatico. Abbiamo fatto anche recentemente una puntata su questo fenomeno. In alcuni settori si stanno cominciando ad utilizzare sempre più i droni, al di là dell'ambito militare dove i droni vengono utilizzati già da molto tempo. Allora, in questo caso, questa licenza di caccia al drone che verrà discussa, se passerà, allora verrà ricompensato chiunque presenti una prova di avere colpito un drone appartenente al governo federale. Una proposta in perfetto stile di quell'America che vede con sufficienza lo Stato federale. Ma al di là di questa provocazione, la cosa è molto indicativa di una crescente preoccupazione per la sorveglianza che molto spesso arriva dal cielo negli Stati Uniti. In alcuni ambiti, ad esempio nelle frontiere, ma anche in alcune città, i droni vengono utilizzati per il controllo del territorio. Quindi non esiste solo un controllo della rete. Abbiamo commentato, abbiamo parlato di Prism e di tutto quello che accade in rete, ma i droni sono sempre più spesso utilizzati per controllare, quindi c'è anche un problema di controllo reale del territorio e di molte persone che cominciano a preoccuparsi che il controllo sia troppo pervasivo in molti ambiti, in alcune città, in alcuni territori. Quindi è stata fatta questa provocazione. Sicuramente il dibattito è molto interessante. Sapete che in Italia l'ENAC sta lavorando ad una regolamentazione, perché visto che questo fenomeno sta letteralmente esplodendo e in molti settori vengono utilizzati i droni, beh, per evitare che ci sia molto traffico sulle nostre teste e si creino anche problemi, deve essere fatta una regolamentazione, e recentemente ne abbiamo parlato, una regolamentazione che dovrebbe essere pronta verso la fine dell'anno. Di questo torneremo sicuramente a parlare. Una notizia che arriva da Bruxelles: la Commissione europea ha bocciato i rimedi che Google ha proposto per mettere fine all'indagine antitrust europeo, e chiede nuove soluzioni se vuole che Google eviti che il dossier si chiuda con una multa che può arrivare, pensate, fino a 5 miliardi di euro. L'indagine era partita 3 anni fa dopo la denuncia di 17 operatori riuniti sotto il nome di Fair Search, quindi ricerca equa, potremmo tradurre così, di cui fanno parte tra gli altri Microsoft, Oracle, Nokia, Expedia e anche TripAdvisor. Allora, secondo Fair Search, i risultati delle ricerche fatte sul motore di ricerca su Google privilegiano i prodotti di Google, mettendoli sempre in cima ai risultati o rendendoli più visibili degli altri. Sapete che negli ultimi anni Google ha esteso il proprio business a molte attività sul web, anche in settori che erano fino a poco tempo fa presidiati da altri operatori: ricerca di hotel, voli, comparazioni di prodotti. Allora, che cosa sta succedendo? Che ad esempio, se cerchiamo un volo aereo, Google tende a mettere prima i suoi risultati invece che quelli di Expedia, Kayak o altri siti che vendono voli. In questo modo è sempre meno necessario per l'utente cliccare su altri link esterni, cioè quelli dei concorrenti, quelli che si stanno lamentando. Google si difende dicendo e sostenendo che lavora per gli utenti per far sì che gli utenti arrivino ad un risultato nel più breve tempo possibile, e quindi questo quello che sta facendo è coerente con questa missione. E quindi dice: a noi interessa rendere la vita più facile ai clienti, agli utenti, e non lavoriamo a favore di tutti gli altri siti. Però gli altri siti si lamentano, la Commissione, assieme alla Commissione Europea, entrambi sostengono che questo sia un abuso della posizione dominante. Google ha fatto una serie di proposte, queste proposte non sono state giudicate sufficienti, anzi alcuni dicono che addirittura peggioravano la situazione. Vedremo quali saranno le proposte che Google presenterà nei prossimi mesi. Adesso abbiamo altre notizie della settimana. Digital News. Si estende a 27 città italiane l'offerta mista in fibra ottica e rame di Vodafone, che permette ai clienti di navigare a 30 megabits al secondo in download e 3 megabits in upload. Vodafone in questo caso sfrutta la nuova rete di Telecom Italia, che sta cablando in fibra ottica alcune decine di città in tutta Italia. In questo caso la fibra arriva all'armadio stradale e prosegue poi con il doppino di rame fino alla casa del cliente. Quindi non vi arrivi, in molte città non arriva il cavo in fibra ottica, ma questa è una soluzione che accorcia la tratta di rame dalla casa alla centrale, quindi c'è solo un pezzetto e migliora di conseguenza le performance della rete. Sono aumentate del 10% nell'ultimo anno le persone che navigano su internet in Cina. Oggi sono 591 milioni, secondo i dati diffusi dal China Internet Network Information Center, pari al 44% della popolazione della Cina. Quasi l'80% di queste accede al web attraverso smartphone e tablet. L'ICANN, l'organizzazione che governa il sistema dei domini sulla rete internet, come il .it, il .com, eccetera, eccetera, ha autorizzato 4 nuove estensioni in carattere non occidentale. Allora, attenzione, ci sarà il .web, ma in lingua e caratteri arabi, poi il .giochi in ideogrammi cinesi, quindi tutte cose che noi faticheremo molto ad utilizzare, poi ci saranno anche 2 estensioni in caratteri cirillici, quindi il .online, che ne so, pravda.online, e anche .website. Sono state bocciate per il momento le proposte .amazon e .patagonia, che erano state richieste da Amazon, cioè il sito di e-commerce, la mitica Amazon, e anche dall'azienda di abbigliamento, la Patagonia, che è un brand molto noto nell'abbigliamento, volevano i propri domini. Queste 2 estensioni erano state contestate fortemente dalle popolazioni sia dell'Amazzonia che della Patagonia. A conferma che i business legati alla geolocalizzazione avranno un futuro molto ricco, Apple ha confermato di aver acquistato questa settimana una startup chiamata Locationary, specializzata nella raccolta di informazioni da attività commerciali tramite il contributo degli utenti. Quindi sfrutta il crowdsourcing per raccogliere informazioni sulla lavanderia, il bar, insomma molti business che ci stanno vicino a casa. Ci sono tantissimi altri servizi, ma questa è piaciuta particolarmente alla Apple, che se l'è comprata questa settimana. A proposito di tanti altri servizi, beh, pensiamo ad esempio alle nostre pagine gialle. Questa cosa la fanno da tantissimi anni, però poi bisogna, assieme alle informazioni, aggiungere molta tecnologia per sapere sfruttare e utilizzare quelle informazioni. Tra le notizie di cui si sta discutendo maggiormente tra gli operatori delle telecomunicazioni negli ultimi giorni, beh, direi già negli ultimi mesi, ma con un'accelerazione degli ultimi giorni, c'è la decisione di Telecom Italia di sospendere lo scambio di traffico tra gli operatori, tra Telecom Italia e molti altri operatori. Allora, sapete che internet si basa sullo scambio gratuito e paritetico tra le reti di diversi operatori. In alcuni casi questo scambio avviene a pagamento, ma tradizionalmente, soprattutto in Italia, molti di questi scambi, quindi quando noi transitiamo su internet non ci accorgiamo, non sappiamo su quali reti transitiamo, e con molta fluidità lo speriamo che il nostro collegamento sia fluido e veloce, passiamo da una rete all'altra. Magari noi clicchiamo per cercare una pagina web o scarichiamo un file e noi non sappiamo quali sono le reti che vengono coinvolte. Bene, questo scambio avviene molto spesso su base paritetica e gratuita. Allora, Telecom Italia ha deciso però che con molti operatori questo scambio deve diventare a pagamento e quindi ha cambiato la propria strategia. Molti di questi operatori che sono rappresentati dalla AIP, l'Associazione Italiana Internet Provider, si sono lamentati, si stanno preoccupando perché dicono molti dei nostri clienti hanno problemi di navigazione. Allora, saluto Renato Brunetti che è il presidente dell'AIP, l'Associazione Italiana Internet Provider, benvenuto 2024. Grazie, saluto a tutti. Senta Brunetti, voi rappresentate l'associazione degli internet provider, rappresenta tutti coloro che forniscono connettività a italiani, a molte aziende italiane. Ho detto bene che Telecom ha deciso di sospendere questo scambio di traffico che per tradizione, diciamo così, storicamente su internet avviene gratuitamente tra una rete e un'altra, tra operatori diversi, giusto? Sì, questa è una cosa che avviene in Italia come avviene nella gran parte dei paesi ed è attiva in Italia dal 1996, quindi sono moltissimi anni che avviene in termini tecnici si chiama peering e avviene nei punti di interscambio detti anche NAP, ce ne sono 6 in Italia, i più importanti sono a Milano e a Roma. E quindi da pochissimo tempo Telecom questa politica così di peering aperto l'ha interrotta in modo unilaterale. Sì, non esiste in questo caso una regolamentazione specifica per questo che, come dicevo, è anche parte della tradizione e del funzionamento della rete internet. Voi che tipo di problemi state avvertendo sulle vostre reti, che sono reti che collegano milioni di utenze in Italia? Bene, diciamo che quello che avviene in questo momento è che i cosiddetti pacchetti, cioè i dati su internet, fanno dei percorsi più lunghi, almeno su alcuni operatori dove è avvenuto questa sconnessione, diciamo così, e la conseguenza è che si va più lenti. Ora, per essere precisi, Telecom offre a pagamento di ritornare nella condizione precedente, quindi ha interrotto la gratuità almeno per gli operatori medio-piccoli, per quelli grandi sembrerebbe che invece la cosa continua, e quindi offre a pagamento agli operatori piccoli, medio-piccoli, la condizione diciamo di scambio in questi punti ottimali. Cosa che noi come appunto rappresentanti o comunque operatori medio-piccoli non vogliamo fare appositamente, non è nemmeno un problema economico, è un problema di ripristinare una situazione che noi ritenevamo in Italia abbastanza ottimale, che invece in questo momento è stata rimossa. Questa è la versione estiva di 2024 in onda il sabato alle 15.30, la domenica alle 16.30. Ma naturalmente ci trovate anche online. Vi consiglio come sempre di abbonarvi gratuitamente al servizio podcast. In questo modo avete la possibilità di scaricare anche in maniera automatica. Ci sono molti software che permettono di scaricare il podcast in maniera automatica settimana dopo settimana, l'ultima delle puntate disponibili. Poi ci sono molti ascoltatori che si ascoltano anche in streaming, quindi collegati alla rete internet. Stiamo parlando con Renato Brunetti, che è il presidente dell'Associazione Italiana Internet Provider, quindi le aziende che ci forniscono collegamenti ad internet, buona parte delle aziende italiane, non tutte. E stiamo parlando della decisione di Telecom Italia, che è l'operatore principale che rappresenta la stragrande maggioranza del traffico della rete internet all'interno del nostro sistema nazionale, la decisione di sospendere lo scambio di traffico con gli altri operatori che storicamente per tradizione avveniva gratuitamente. Sono cambiate le strategie, ci sono una serie di motivazioni. alcune di carattere tecnico, altre di carattere commerciale, altre che fanno riferimento alla qualità del servizio, insomma, però molti operatori si stanno lamentando, dicono ma questa è un'operazione che ci mette un po' in difficoltà, mette in difficoltà molti dei nostri utenti, molti dei nostri clienti. È un argomento molto interessante, sicuramente non finisce qui in questi mesi estivi, ci saranno notizie relative a questo dossier anche nei prossimi mesi sicuramente. Se ne volete sapere di più, tra l'altro Nova con il Sole 24 Ore della domenica se ne occupa, quindi trovate un approfondimento anche in edicola sul giornale, sul Sole 24 Ore. Dunque Brunetti, quali sono poi concretamente i problemi che i vostri clienti hanno? Solo un, rallentamento della un visione? Un rallentamento e perdita di pacchetti, che ad esempio nelle applicazioni VoIP è molto importante. Ad esempio, se lei deve sta a Roma, deve andare su un contenuto che sta a Roma, potrebbe darsi che va a Milano o addirittura a Francoforte o ad Amsterdam e poi questi pacchetti ritornano indietro e quindi fanno un percorso molto più lungo, che significa che si hanno due tipi di problemi. Uno, lentezza, quindi si perdono magari 10, 20, 30, 50 millisecondi su ogni pacchetto, che su grossi trasferimenti è significativo. E l'altro aspetto è che le linee degli operatori si intasano, perché invece di fare un percorso magari di pochi chilometri, si fa un percorso di migliaia di chilometri. Cioè lei dice, se io sono a Milano, voglio visualizzare una pagina sempre di un operatore che sta a Milano, il rischio in questo caso, essendosi interrotti alcuni collegamenti, è che il mio click col mouse faccia un giro e magari venga scambiato il traffico su un punto di interscambio che sta ad Amsterdam. Assolutamente sì. Certo. Se io devo visualizzare una pagina internet, potrei anche dire, vabbè, ci metto qualche secondo in più. Secondo voi invece che tipo di problemi possono esserci più gravi? Perché siccome c'è un ritardo tra un pacchetto e l'altro, significa, perché i pacchetti su internet hanno tutto un meccanismo di invio e di feedback, di conferma, significa che la somma dei tempi di non trasmissione, essendo tutti i pacchetti più lenti, possono essere rilevanti, quindi il transfer rate effettivo può diminuire, insomma. Però quindi significa pure che ad esempio il VoIP, che è un'applicazione importantissima, anche i video eccetera, possono avere dei ritardi, quindi si percepisce una qualità più bassa. Secondo voi questa serie di problemi come si possono risolvere? Secondo noi si possono risolvere e non lo vogliamo fare a pagamento, ripeto, perché si stravolgono alcuni concetti di neutralità della rete e di posizione dominante, che in questo caso viene assolutamente enfatizzata nei fatti. Noi vorremmo che l'Authority, che è molto proattiva su tanti argomenti, si occupasse anche di questo e speriamo che lo faccia. Vi siete già rivolti sul punto specifico all'Authority? Sì, noi abbiamo mandato una lettera all'Authority che denuncia la situazione che è in essere e probabilmente ci sarà qualche tipo, speriamo, di provvedimento in questo senso. Avete inviato una comunicazione anche a Bruxelles? No, al momento no, ma non escludiamo di farla. Senta, a proposito dell'Authority per le comunicazioni, l'AGCOM, in una recente audizione il presidente Cardani ha parlato del diritto d'autore, che è un tema sul quale l'Authority sta lavorando, un tema molto importante, e naturalmente vi coinvolge perché c'è una corrente di pensiero che dice e sostiene che gli internet provider dovrebbero essere coinvolti molto di più rispetto a quello che accade oggi per intercettare la pirateria. Ci sono varie esperienze nel mondo, forse quella che funziona meglio è negli Stati Uniti, dove esiste tutto un meccanismo per cui all'interno delle reti vengono intercettati i pacchetti che in qualche modo contengono materiale illegale, quindi devono essere segnalati alle autorità. L'autorità, in questo caso Cardani, ha detto preferiamo una serie di provvedimenti di carattere amministrativo, quindi fondamentalmente gli internet service provider ci devono aiutare per intercettare chi scambia contenuti illegali, quindi chi scarica canzoni, film, eccetera, eccetera. Da questo punto di vista siete d'accordo? Allora, sul principio di che ci debba essere un uso legale dei contenuti siamo perfettamente d'accordo. Sulle modalità, ovvero mettere in atto quella che si chiama Deep Packet Inspection, ovvero far transitare tutto il traffico degli utenti dentro alcune macchine che fanno questo tipo di lavoro, fra l'altro macchine costose. Fanno un'analisi dei dati di quello che passa. Sì, insomma, fanno un'analisi dei dati e vanno a capire se si tratta di certe cose piuttosto che altre. Crediamo che sia una cosa costosa, produce inefficienza nella rete, quindi significa perché questi pacchetti devono essere forzati su percorsi. Oggi il routing di internet è molto distribuito, quindi i pacchetti fanno i percorsi ottimali, questo proprio i router che sono le macchine fondamentali fanno questo. Uno non è che può distribuire sulla rete, sui gateway eccetera, decine di questi di queste macchine che sono tra l'altro costosissime, vanno concentrate. Per concentrarle bisogna quindi far fare dei percorsi non più naturali al traffico ma forzato, quindi questo produce costi oltre che delle macchine anche delle linee. Ma a parte questo si scatenerebbe subito tutto un meccanismo di contromisure che gli utenti, che facilmente poi internet diciamo non ha problemi a diffondere tecniche e contromisure usando VPN, criptazione eccetera, per cui ci saranno immediatamente le contromisure messe in atto dagli utenti che vogliono scaricare, quindi diventa pure una specie di rincorsa. Quindi se capisco bene in questo caso l'ipotesi insomma che potrebbe essere presa in considerazione si spia tutto il traffico che c'è sulla rete per capire se sta passando una pagina internet normale oppure una canzone piratata, diciamo così. Lei dice, se io utente finale so che viene fatta questa cosa, comincerò ad adottare dei sistemi che mascherano questo traffico e lo fanno sembrare qualcos'altro. E quindi questa ispezione non funziona. Esattamente. Come fanno, fra l'altro, i paesi dove c'è una censura, no? In Iran, in Cina, cosa fanno? Usano delle tecniche VPN criptate e vanno a prendere i contenuti da tutte le parti. Ma in quel caso parliamo di contenuti normali, ma sarebbe la stessa cosa se si scarica un film o una canzone. Sì, sì, perché in quei paesi i contenuti normali sono censurati, quindi equiparati a quelli illegali, certo, quelli illegali per noi. Ma quindi lì sono maestri, hanno risolto i problemi, non c'è, vogliamo fare pure qui questa cosa, ma mi sono perplesso. Dall'altra parte cosa c'è un aspetto più di tipo legale, sono perplesso che possa essere un'azione amministrativa che decreti o che renda diciamo operativa questa cosa. Io credo che ci vogliono leggi, se ne deve occupare il Parlamento e la magistratura. Certo, lei dice scaricare un film è un reato e quindi deve intervenire il magistrato. È un reato penale e fino a prova contraria mi risulta anche un reato penale, se ne deve occupare la magistratura. Tutto si può cambiare, per carità, però insomma, questo lo dovrà decidere il Parlamento, penso. Bene, Brunetti, la ringrazio per essere stato con noi, le auguro un buon fine settimana, presto, buon lavoro. Anche a voi, grazie e buona giornata. E noi concludiamo questa puntata di 2024, ci risentiamo domani per la replica della domenica. Vi dico solo, a proposito di pirateria, che il GIP di Milano Ghinetti ha disposto il sequestro preventivo di un sito piuttosto famoso tra alcuni utenti appassionati di calcio e che cercavano di vedere il calcio in diretta streaming su internet senza pagare, perché esiste questo sito spagnolo Roja Directa che aggrega link per vedere partite di calcio e altri sport in streaming. Il sequestro era stato chiesto dalla procura dopo gli esposti di RT Gruppo Mediaset e della Lega Calcio e il giudice ha ritenuto che il tutto venisse effettuato in maniera illegale. È tutto per questa puntata, io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it, ci trovate anche su Facebook e Twitter, appuntamento alla prossima settimana. 2024. 2024. 2024. 2024.